Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Benvenuti a Radio Doc. Questa sera vi raccontiamo, in collaborazione con History Channel, la storia di Giuseppe Impastato, meglio noto come Peppino. Quando il 5 gennaio del 1948 Giuseppe nasceva in una famiglia mafiosa del palermitano, nessuno poteva immaginarsi che di lì a pochi anni quel bambino sarebbe diventato famoso per le sue accuse alla malavita organizzata. Stasera, tramite la testimonianza del fratello e di alcuni amici, ripercorreremo la storia di Peppino. Dalla sua vita politica alla militanza antifascista, fino a quelle denunce contro la mafia siciliana che il 9 maggio 1978 gli costarono la vita. Lo storico Salvatore Lupo ci racconta il clima che si respirava a Cinisi, la città in cui Peppino è nato e cresciuto. La mafia a prima vista è un fenomeno locale, riguarda una parte di questa regione, la Sicilia occidentale, e all'interno una serie di zone e di paesi che sono generatori e vorrei dire anche esportatori di mafia. Un paese come Cinisi, ad esempio, è un antico centro di mafia. In un paese di questo genere, che cos'è la mafia? È un sistema di mediazione sociale in cui certi personaggi influenti, sia con il povero contadino, sia con il grande avvocato, si presentano come mediatori, sempre disponibili a trovare la soluzione del problema. Siccome molto spesso questa mediazione non funziona, questa bonomia apparente ha sempre dietro la minaccia di risolvere la questione con la violenza. Giovanni Impastato, fratello di Peppino. La mia famiglia era una famiglia di origine mafiosa. Mio zio Cesare Manzella, che era sposato con una sorella di mio padre, era il capo della cupola negli anni 60. Cesare Manzella viene ucciso il 26 aprile del 1963, la prima autobomba nella storia dei delitti di mafia. Io avevo appena 10 anni, Peppino ne aveva 15, siamo andati a vedere quello che era successo nella tenuta di Cesare Manzella. Quel delitto per noi è stato un trauma. Peppino, rivolto a me, si è espresso in questo modo: se questa è mafia, io per tutta la vita mi batterò contro. Da lì inizia la sua rottura all'interno non solo della società, del paese Cinisi dove viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia. In un meccanismo di società locale in cui la mafia ha talmente tale influenza, è evidente che la famiglia, che è influenzata dalla mafia, in cui esistono elementi mafiosi, diventa, diciamo, la cellula più compatta e più impermeabile di questo universo. Umberto Santino, del centro di documentazione Peppino Impastato. Peppino è un caso unico, non c'è un altro caso di militante, di attivista, diciamo, la lotta contro la mafia, che proviene da una famiglia mafiosa, e famiglia mafiosa di serie A. Per Peppino è il problema del suo sangue, il problema delle sue radici, il problema della sua stessa esistenza. Piano piano è cresciuto questo ragazzo, che ha cominciato ad aprire un po' gli occhi, a capire qual era il contesto che lo circondava. Lo zio Matteo, che era un liberale, era di idee molto aperte. Stefano Venuti, che è stato il fondatore del Partito Comunista a Cinisi, la figura di questo pittore anticonformista. Peppino ha emanato un fascino particolare. E hanno avuto un ruolo importantissimo in quella fase di formazione del suo carattere, della sua sensibilità. Assieme a un gruppo di suoi amici e compagni fonda il giornale L'Idea Socialista. Eravamo negli anni 60. Dal diario di Peppino Impastato. Arrivai alla politica nel lontano novembre del 65, su basi puramente emozionali. A partire, cioè, da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Con la famiglia dei Badalamenti c'erano buoni rapporti. Erano molto amici di mio padre. Abitavamo vicini, Gaetano Badalamenti veniva spesso anche in questa casa. Mia madre non voleva mafiosi in casa. Io gliel'ho detto a mio marito: bada, che tu la gitanza in questa casa non ne devi portare. Dopo la ribellione di Peppino, anche lei incomincia a capire realmente chi era il marito e in quale ambiente viveva. Sempre dal diario di Peppino. Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto con connotati tipici di una società tardo contadina e pre-industriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi fin dalla mia nascita nel tentativo di impormi le sue scelte ed il suo codice comportamentale. È riuscito soltanto a tagliarmi ogni canale di comunicazione affettiva ed a compromettere definitivamente ogni possibilità di espansione lineare della mia soggettività. Mio padre ammirava moltissimo Peppino, era orgoglioso di questo figlio così vivace, molto intelligente, che studiava. Chiaro che ne voleva fare una persona come pensava lui, non c'è riuscito. Per un mafioso questo è totale fallimento. Peppino viveva malissimo, viveva fuori di casa, poi rientrava. Quando mio padre lo buttava fuori, prendeva un po' le distanze da questo figlio ribelle. Era un periodo importante dal punto di vista dell'impegno politico, già si avvicinava il 68, Peppino è stato coinvolto da quella rivolta giovanile, aveva vissuto l'esperienza della marcia della pace organizzata assieme a Danilo Dolci, che per lui era un punto di riferimento importante. Peppino comincia le battaglie nel sociale a favore dei contadini che venivano espropriati dei terreni per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi. Salvatore Vitale, amico di Peppino Impastato. Negli anni 50 si prese la sciagurata decisione di costruire un aeroporto che servisse la città di Palermo. Lo fecero a Cinisi, un lembo di terra circondato dalle montagne. La decisione venne presa dalla regione siciliana, ma dietro c'era la forte pressione della mafia di Cinisi, il cui capoccia allora era Cesare Manzella, zio di Peppino Impastato. Il controllo di un aeroporto per un boss mafioso significa avere mano libera nell'organizzare i viaggi con l'America, i traffici di armi e di droga. Fatta la prima pista, anzi le prime due piste, che sono una il prolungamento dell'altra, ci si accorse che quando c'era forte vento gli aerei non potevano atterrare. 10 anni dopo si pensò di fare una pista trasversale. Questa volta si venivano a intaccare i terreni più produttivi del paese, in questa contrada che si chiama Molinazzo, dove vivevano circa 250 famiglie. Parecchia gente si è vista buttare a terra la casa dove viveva regolarmente. Ci sono stati quasi un anno e mezzo di lotte. È stato in questa occasione che ci siamo conosciuti e abbiamo lasciato un rapporto politico con Peppino. Il ricordo di Peppino nella testimonianza degli amici del circolo Musica e Cultura. A Cinisi i ragazzi avevano bisogno di qualche sfogo. Non è che c'era niente in quel periodo nella zona. Assieme a Peppino ed altri abbiamo creato il circolo Musica e Cultura. Per noi giovani è stato importantissimo, è stato un punto di riferimento. Era una delle poche realtà per cui veniva il ragazzino di qualsiasi tipo di famiglia. L'operaio, lo studente. La Musica e Cultura ha cominciato a vedere che esisteva un altro mondo, un'altra realtà. La musica, il cinema, l'arte in genere erano dei mezzi di comunicazione importanti per cercare di sensibilizzare un po' la gente, soprattutto i giovani, e portarli un po' all'impegno antimafia. Si comincia alla fine del 75 e si va avanti per un paio d'anni a ritmi molto intensi. Cominciano le prime battaglie, le prime denunce molto forti. Parliamo di 30 anni fa, quando la cappa mafiosa era vivibile giornalmente per strada. E all'interno di questo circolo Musica e Cultura c'era il collettivo femminista. Per Cinisi era una grande novità lavorare insieme, ragazzi e ragazze. Noi lo facevamo, se c'era da trasportare quadri quando si facevano le mostre lo facevamo anche noi, piantare i chiodi, tutto quello che c'era da fare lo facevamo insieme, fianco a fianco, ed era una cosa bellissima. Noi qua discutevamo del dovere chiedere ai genitori il permesso per andare a lavorare. A quell'età si pensa di dover cambiare una società che invece era contro di noi. Erano delle puttane, delle persone che organizzavano dei collettivi femministi non potevano essere altro che questo. Lì si ballava, ci si divertiva pure, però si dava un senso a quelle cose, si rifletteva veramente e si decideva l'impegno che noi dovevamo portare avanti. Lì c'è un Peppino scanzonato, ha organizzato i concerti, ha organizzato il cineforum, organizzava un carnevale alternativo dove veramente faceva divertire la gente. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alla vita di Giuseppe Impastato. Nel 1976 Peppino fonda Radio Out, un'emittente libera e autofinanziata con cui denuncia i delitti e gli affari illeciti dei mafiosi della zona. Peppino ha intuito il principio che le proprie idee bisogna saperle diffondere e la radio era proprio lo strumento per arrivare là dove magari la gente, rimanendo a casa, preferiva ignorare alcuni argomenti. Scaturiva tutto fuori dalle iniziative di Peppino, dalle idee di Peppino. Noi eravamo molto vicini a lui, era trainante. Quando abbiamo occupato la radio mi ricordo che lui mi aiutava spesso a fare le trasmissioni, insomma facevamo sempre trasmissioni assieme. Ci siamo procurati un trasmettitore militare al mercato delle Pucce a Palermo, l'antenna, poi avevamo degli amici tecnici e poi si andava a provare dove il segnale arrivava, perché arrivava sul golfo di fronte, Cinisi e Terrasine, poi oltre la montagna non ci arrivava. A secondo il tempo, il vento, meno il segnale non arrivava oltre, diciamo, a Castellammare. Peppino mi disse: abbiamo una radio, hai intenzione di lavorarci, mi sembra che tu non vuoi più fare niente, è come se mi avesse dato uno schiaffo. Da quel momento gli ultimi mesi sono stati quelli più intensi che abbiamo vissuto assieme, soprattutto nel portare avanti questa trasmissione Onda Pazza, che era una trasmissione satiro-politico, schizofrenica, in cui non c'era pietà per nessuno. Dicevamo che la mafia locale gestiva certe cose, facendo dei nomi e dei cognomi che in quel periodo non dovevano essere fatti. La satira era lo strumento per mettere in ridicolo i ben pensanti, i responsabili politici del paese e soprattutto i mafiosi. Onda Pazza rappresentava l'amministrazione locale, Cinisi era Mafiopoli, il nostro municipio era il Maficipio di Mafiopoli, il nostro corso era Corso Luciano Liggio, nonché il grande capo Tano Seduto. Peppino diceva sempre che a Cinisi non si muove foglia che Don Tano non voglia. E rappresentava queste sedute della nostra amministrazione, della giunta comunale, dove si dibattevano le gare di appalto. Si arriva Onda Pazza, la trasmissione schizofrenica di Radio Out, la trasmissione di fantapolitica di Radio Out. Cercavamo di sminuire l'intoccabilità di questi personaggi e in particolar modo di Gaetano Badalamenti. Si muoverà foglia senza il nostro consenso. Che Tano non voglia. L'essere preso in giro per un mafioso è una questione d'onore. Noi abbiamo un proverbio siciliano che dice: un rispetto è misurato, culo porta l'ave portato. E noi mancavamo di rispetto a Don Tano, che era in assoluto il capo di Cosa Nostra. Perché Don Tano un caca e se caca caca d'oro. Ecco, lo facevamo parlare in questo modo. I miei metodi funzionano sempre. Don Tano Badalamenti, un grande capo. Quando lui passava a Cinisi, le persone quasi quasi si inchinavano al suo passaggio. Peppino si permetteva di ridicolizzarlo, fare ridere tutte le persone di Cinisi. I ragazzini che incominciavano a ripetere Tano seduto, i bambini che chiaramente non capivano, però sentivano queste trasmissioni, anche loro si divertivano, la gente l'ascoltava, c'erano indici di ascolto molto elevati. Allora Radio Out era una radio che si ascoltava sia a Terrasini che a Cinisi di nascosto, chi la sentiva non doveva dire che la sentiva, non pensavamo di riuscire a coinvolgere chissà quanta gente nell'ascolto della radio, era forse più un bisogno nostro personale. Nessuno di noi pensava che la fase finale della nostra voglia di democrazia poteva essere stroncata da un delitto. Ce ne siamo accorti nel momento in cui è successo e per noi in un certo senso è crollato il mondo. Felicetta Vitale, moglie di Giovanni Impastato. Peppino aveva distribuito un volantino molto pesante in cui accusava Badalamenti di essere esperto in Lupara. Mio suocero è stato richiamato, è venuto qua a casa nostra Palazzolo, luogotenente di Badalamenti. Mio suocero ci comunica: devo fare un viaggio, però non vi dico né dove vado né cosa vado a fare. Dopo che lui è rientrato, dopo un paio di mesi, mio suocero è morto. Era stato investito da una macchina. Francesca Randazzo, amica di Peppino. Davanti la porta della casa di Peppino, questi tre gradini erano pieni di gente che era venuta a fare le condoglianze. Ricordo Peppino che si scaglia contro queste persone cercando di allontanarle, dicendo: con quale diritto siete qui, voi che l'avete ucciso non potete essere qui davanti alla mia porta in questo momento. Noi che tentiamo di tenerlo senza riuscire a tenerlo, perché la sua rabbia in quel momento era talmente tanta. Giovanni Impastato, fratello di Peppino. Mio padre era diventato un pericolo per l'organizzazione mafiosa. Appena lui è morto, io ho capito che veramente Peppino era a rischio. Il pomeriggio dell'8 maggio a me è stata fatta da parte di un mio parente una raccomandazione di non andare in paese perché quella sera sarebbe successo qualcosa di grosso. Questa cosa l'abbiamo subito avvertita come un brutto segnale. Con questo problema, questa paura, ci siamo rivisti e siamo andati a cercare Peppino subito. Abbiamo chiesto a qualcuno che conoscevamo in giro se lo avevano visto a Cinisi, ma nessuno lo aveva visto e quindi cominciavamo a preoccuparci. Peppino aveva ricevuto minacce in passato e pochi giorni prima la sua macchina, la 850 Fiat, era stata sabotata. 9 maggio 1978, da un notiziario di quel giorno. Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato. Vincenzo Gervasi, avvocato della famiglia Impastato. La comunicazione giudiziaria che arriva immediatamente dalla Procura Generale di Palermo è un atto che vede Peppino Impastato come un terrorista. Successivamente, invece, si dice che è stato suicidio. Siamo andati sul posto, non ci hanno fatto mettere piede, era tutto assolutamente circondato. Un sottufficiale ci vide avvicinare e ci bloccò subito. Ha detto: voi mi fermate qua, non potete andare avanti. Vi dovete presentare immediatamente alla caserma di Cinisi. Ricordo di essermi recato presso tutta la tipografia della zona, che non hanno voluto stampare un manifesto. Manifesto in cui dicevamo che Peppino era stato assassinato dalla mafia. Ricordo mia madre che venne ad aprirmi e dirmi: sentiste, hai sentito l'amico tuo, voleva fare saltare in aria il treno che portava gli operai a Palermo. Quindi la raffinatezza del piano era non solo ucciderlo, ma distruggerne anche la memoria e il lavoro politico. Dalla sentenza del 5 marzo 2001. In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 533 e 535 codice procedura penale, dichiara Badalamenti Gaetano colpevole del reato di omicidio premeditato di cui al capo A della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena. Che Badalamenti fosse il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, molti nell'immediatezza l'avevano denunciato con cognizione di causa. Fino a quando non sono arrivati i collaboratori di giustizia, noi non avevamo le prove sufficienti per portare alla sbarra coloro che avevano ordinato l'uccisione di Peppino Impastato. Se Palazzolo Salvatore non ci avesse detto che a dare l'ordine era stato Gaetano Badalamenti, se questa cosa non ce l'avesse confermata anche Di Carlo e poi Mutolo, non avremmo potuto scrivere una pagina del genere. Noi abbiamo fatto una scelta di focalizzare in quel momento, nel 78, la responsabilità di Gaetano Badalamenti e dei suoi uomini e siamo riusciti a portarli a condanna. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario Peppino Impastato, 100 passi contro, andrà in onda su History Channel giovedì 14 novembre alle 21. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi e Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.